La Pinacoteca Agnelli a Lingotto di Torino ospita fino al 28 giugno la Madonna del Divino Amore di Raffaello, opera dai colori straordinari e capolavoro dell'arte italiana. Aperto anche 25 aprile e 1 maggio. Info su pinacoteca-agnelli.it. Chi ha ucciso Gregor Samsa? Indagine su Kafka. E Gregorio abbandonò il suo sostegno e s'affacciò oltre la soglia per raggiungere il procuratore, mentre quello s'aggrappava in modo grottesco alla balaustra delle scale. Ma perse l'equilibrio e con un debole grido cadde sulle zampine. Immediatamente, e fu la prima volta nella mattinata, provò una specie di benessere fisico. Notò con soddisfazione che le zampine, con qualcosa di solido sotto, obbedivano a meraviglia, fremevano addirittura dal desiderio di portarlo dove voleva. Buona serata e buon sabato pomeriggio da Ennio Speranza e da Elisabetta Parisi in regia. Terzo appuntamento con la nostra indagine su Kafka a 100 anni dalla comparsa della Metamorfosi, che, come ci ha suggerito precedentemente il traduttore Enrico Ganni, sarebbe forse più appropriato chiamare La Trasformazione. Ma tant'è, è difficile mutare un titolo che è entrato prepotentemente nell'immaginario collettivo letterario e non solo letterario. Oggi ci facciamo queste domande. Come è fatto Gregor? E quale corpo abita Gregor? E chi è disposto a dialogare con lui, con il mostro? La nostra indagine prosegue con il primo interprete del testo, che è Massimo Fusillo, professore di letterature comparate all'Università dell'Aquila. Una straordinaria rappresentazione del suo movimento, del suo prendere coscienza della nuova rapporto con lo spazio che ha in quanto animale, del suo nuovo corpo, che è fra le cose più straordinarie della letteratura sulla metamorfosi, perché è tutto portato avanti dal punto di vista del Gregor insetto, come se noi lo vedessimo dai suoi occhi, entrassimo nella sua mente. Questa empatia con l'animalità, che è molto tipica di Kafka, che ha scritto poi tanti altri racconti in cui gli animali giocano un ruolo importante. Cioè, questo insetto è senz'altro qualcosa di inquietante, qualcosa indubbiamente anche che può creare disgusto, però nello stesso tempo, dato che lo viviamo dal punto di vista di Gregor, proviamo anche sensazioni di piacere. Piacere dell'animalità, il piacere di una mobilità diversa, il piacere di arrampicarsi e camminare sul soffitto, un piacere anche di una sensualità che questo animale poi prova, e poi vabbè, c'è tutto il discorso con la sorella. Ecco, l'animalità è una regressione a uno stato appunto in cui non abbiamo forse la caratteristica che più ci definisce in quanto esseri umani, cioè il linguaggio, ed è uno stato mostruoso, inquietante, ma nello stesso tempo è uno stato che possiede delle potenzialità euforiche, positive. Per cui è sempre molto difficile dire come ci si sente, come Kafka vuole che ci sente il suo lettore, d'altronde ogni lettore si sente in maniera diversa, però credo che la categoria, che è un'altra categoria freudiana fondamentale, sia l'ambivalenza. Cioè sentiamo la mostruosità, sentiamo il disgusto, ma sentiamo anche il piacere, sentiamo l'euforia. E un'altra cosa fondamentale di questo primo capitolo è che troviamo poi la finestra, questa e la fotografia. Sono due elementi che ci sono subito all'inizio della metamorfosi e che sono fondamentali. La fotografia è un elemento feticistico, una fotografia di una figura femminile. Potrebbe sembrare un elemento solo decorativo, però poi sarà fondamentale nel finale, in una scena molto importante con la sorella, quando lui, Gregor, insetto, coprirà questa fotografia e avrà una chiara simbologia sessuale. E poi la finestra, perché la finestra è questo rapporto fra interno e esterno, questa diversa percezione del mondo che l'insetto ha, questa vita fatta di contemplazione, di contemplazione un po' sognante, un po'... Ecco, i sogni ritornano anche in questo guardare continuo alla finestra che Gregor fa con la complicità della sorella che gli permette appunto di stare appunto, la maggior parte della giornata alla finestra. Mentre tutto fremente per la voglia di muoversi rimaneva disteso di fronte alla mamma, questa, che sembrava esanime, balzò d'un tratto in piedi, spalancò le braccia allargando le dita e gridò: «Aiuto! Per l'amor di Dio, aiuto!» A giudicare dal suo capo chino, pareva volesse guardare Gregorio. Cominciò invece a indietreggiare a precipizio, senza pensare alla tavola ancora apparecchiata. La urtò, gli si sedette sopra, come avrebbe fatto una persona distratta, e non parve neppure accorgersi che dalla grande caffettiera rovesciata un rivolo di caffè prese a scorrere sul tappeto. «Mamma! Mamma!» chiamò piano Gregorio, alzando gli occhi. Aveva dimenticato il procuratore, ma alla vista del caffè che scorreva non poté impedirsi di far scattare più volte le mascelle a vuoto. E abbiamo ascoltato, vi ricordo, dalla lettura di Nando Gazzolo alcuni estratti nella traduzione di Giorgio Zampa con le musiche a cura di Lorenzo Chiera e la regia di Luigi Durissi. E proprio a partire dalle suggestioni date dalle parole di Massimo Fusillo, quindi la finestra, lo sguardo di Gregor, la sorella, oggi vogliamo puntare l'attenzione soprattutto nei confronti del personaggio della sorella di Gregor, la figura forse più ambigua e interessante del racconto. È l'unico che tenta il dialogo con il nostro Gregor, che prova nei limiti della situazione, come dire, ad accudirlo, a comprenderlo, che all'inizio sembra anche essere dalla sua parte, ce lo racconta anche Kafka, no? Solo la sorella gli era comunque rimasta vicina. È la figura per cui Gregor prova un affetto incondizionato e dirompente, che invece, alla fine, è quella che con maggiore decisione lo abbandona al proprio destino, facendosi riassorbire dalla famiglia. Agitando goffamente le antenne, che a questo punto cominciò ad apprezzare, si trascinò fino alla porta per rendersi conto di quanto era successo dall'altra parte. Il fianco sinistro gli dava l'impressione d'essere un'unica, dolorosa cicatrice, e una fila di zampine non lo reggeva. Un arto era rimasto seriamente leso negli incidenti della mattinata, un miracolo che fosse solo uno, e si trascinava inerte. Solo quando fu arrivato davanti alla porta, capì cosa l'aveva attirato sin là: un odore di cibi. C'era una ciotola piena di latte zuccherato su cui galleggiavano fettine di pane bianco. Avrebbe quasi riso di gioia, tanto la sua fame era aumentata dal mattino. Immerse avido la testa nel latte, ma subito la ritrasse deluso. Non solo provava difficoltà a mangiare per la ferita al fianco, per mangiare doveva comprimere e dilatare tutto il corpo, ma il latte, che la sorella sapeva essere la sua bevanda prediletta e per questo gli aveva portato, ora non gli piaceva più. Quasi con disgusto, voltò il dorso alla ciotola e, strisciando, tornò in mezzo alla camera. Attraverso le fessure dell'uscio, Gregorio vide che in sala era acceso il gas. Ma mentre a quell'ora di solito il babbo leggeva il giornale alla mamma e a volte anche alla sorella, in quel momento non si sentiva nulla. Per non smarrirsi in simili pensieri, Gregorio volle muoversi, strisciando in su e in giù per la camera. Mauro Kovacic, nato a Trieste nel 1965, è uno scrittore che si è occupato spesso del rapporto tra ciò che appare normale e ciò che non lo è. E le sue storie spesso lambiscono temi estremi, perturbanti, toccando nervi, come dire, sensibili. Ricordo tra i suoi libri Storie di pazzi e di normali, Anomalie, L'amore contro, A perdi fiato, Prima di sparire, A nome tuo, da cui è stato tratto il film di Valeria Golino, Miele, L'esperimento e la raccolta di racconti La sposa, uscito da non molto. Con Mauro Kovacic abbiamo parlato dell'umanità del mostro, di quanto in realtà poco normali siano i pensieri e le opinioni di Gregor, al di là della voce che gli altri non comprendono più, e del suo aspetto fisico. Che mostro è Gregor Samsa? È un mostro tutt'altro che, diciamo, disumano. Questo mi sembra il primo aspetto dal mio punto di vista interessante, nel senso che questo enorme insetto immondo forse non è un mostro, forse sono io stesso nel percepirmi davvero, questa è un po' la mia impressione. Quella trasformazione è tutt'altro che disumanizzante, cioè io mi accorgo di chi sono veramente. A me, leggendo questo racconto, è venuto in mente, ad esempio, le confessioni di Agostino, no? Agostino a un certo punto nelle confessioni lo dice, proprio Agostino è il convertito per eccellenza, secondo me, no? Ma non solo secondo me, voglio dire secondo tutti. E Agostino lo dice a chiare lettere a un certo punto, dice: solo adesso, mentre sto diventando altro, capisco chi sono stato. Cioè è in questa percezione di alterità assoluta, che è evidentemente una percezione traumatica, scioccante, io capisco chi sono stato. Tant'è vero che Gregor non perde mai la consapevolezza di se stesso, no? Si guarda costantemente. Un aspetto, diciamo, che ci fa capire questa cosa, secondo me, è giocandolo, diciamo, con un confronto, no? Con un confronto e con un... per opposto, ad esempio, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dr. Jekyll e Mr. Hyde ci mostrano in realtà una trasformazione che porta veramente a uno sdoppiamento di identità, uno sdoppiamento di personalità e a una totale perdita di coscienza, no? Dr. Jekyll non sa che cosa succede quando diventa Dr. Hyde, Mr. Hyde, e viceversa, no? Sono due personalità che convivono. In realtà qui Gregor ha la perfetta percezione che si è trasformato, ma si è trasformato a partire dalla sua identità, dalla sua soggettività. E questo, secondo me, è un elemento importante di questo racconto. Il primo tentativo della sorella, in buona fede, è quello di negarsi che è un mostro, o comunque perlomeno cercare di porre delle soluzioni, no? Al fatto che sia un mostro, come qualcosa di, come una specie di allucinazione passeggera, no? Quindi dipende da come guardi quel corpo per decidere se è davvero mostruoso o meno. Secondo me questo è il passaggio chiave, diciamo, di tutto il racconto, che, ripeto, mantiene sempre questa ambiguità, cioè non ci fa mai precipitare in una condizione di assoluta visionarietà onirica, no? Secondo me la grande forza, che poi è la grande forza di Franz Kafka, perché non c'è soltanto nella metamorfosi, no? La grande forza di questo racconto è quella di combinare insieme i due parametri, diciamo, il parametro della realtà, chiamiamola oggettiva, dove le cose continuano uguali, e dove c'è una sorella che porta le ciotole e porta il cibo e un padre che dice adesso come faremo a tirare avanti, che lui non va più in ufficio, e dove, come dire, il menage familiare cerca di adattarsi realisticamente a questo cambiamento, e dall'altra parte la straordinarietà incomprensibile di questo cambiamento, perché è un cambiamento assolutamente incomprensibile, chi mai si è trasformato in insetto? Però in questa straordinarietà tutto, diciamo, tutto ciò che sta attorno a questa metamorfosi resta immutato, e questa è la grande invenzione. E questo, dal mio punto di vista, è come se questo contrasto, questa commistione, fosse un modo per farci intendere, dal punto di vista dell'autore, che quell'insetto non è un insetto, quell'insetto siamo noi. L'occasione di saggiare i suoi propositi si presentò a Gregorio ancora avanti giorno, quando la sorella, quasi vestita, aprì la porta dell'anticamera e guardò dentro con ansia. Non lo trovò subito, ma quando lo vide sotto il divano, Dio mio, doveva pure essere da qualche parte, non poteva essere volato via, prese un tale spavento che, incapace di dominarsi, richiuse la porta dietro. Poi, come pentita del gesto, la riaprì ed avanzò in punta di piedi, quasi fosse nella camera d'un malato grave o di un estraneo. Gregorio spinta la testa fino all'orlo del divano, la osservava. Si sarebbe accorta che non aveva toccato il latte, ma non per mancanza di appetito. Gli avrebbe portato qualche altra cosa più adatta? Se non l'avesse fatto da sola, lui avrebbe preferito morire di fame piuttosto che farglielo notare. Sebbene bruciasse dalla voglia di uscire dal divano per gettarsi ai piedi della ragazza, supplicandola di dargli qualcosa di buono da mangiare. Ma la sorella si accorse subito con stupore della ciotola ancora piena, intorno alla quale erano cadute alcune gocce di latte. L'afferrò, servendosi d'un pezzo di carta, e la portò via. Gregorio era curioso di vedere cosa gli avrebbe portato in cambio. Ma per quanto fantasticasse, non avrebbe mai indovinato fino a che punto poteva spingersi la bontà della sorella. Per conoscere i suoi gusti, questa portò una quantità di roba sopra un vecchio giornale: verdura quasi marcia, ossa avanzate la sera prima, rivestite di salsa bianca rapresa, uva passa, mandorle, un formaggio che Gregorio due giorni avanti aveva dichiarato immangiabile, un pane secco, un pezzo di pane imburrato col sale e un altro senza sale. Accanto al giornale posò la ciotola della sera prima, destinata ormai a lui, questa volta piena d'acqua. Prevedendo che Gregorio, in sua presenza, non avrebbe mangiato, spinse la delicatezza a lasciare la camera, chiudendo l'uscio a chiave, facendogli così capire che poteva fare il suo comodo. Ora che il pasto era pronto, le zampine di Gregorio erano in grande agitazione. Le sue ferite dovevano essere guarite perché non sentiva più nessun fastidio. Ne fu stupito e ripensò a un piccolo taglio in un dito prodottosi un mese avanti che faceva male ancora due giorni prima. Che abbia ora meno sensibilità, pensò succhiando avido il formaggio che fra i cibi lo aveva immediatamente e imperiosamente attirato. Con un gusto che lo faceva lacrimare, divorò uno sull'altro formaggio, verdura, salsa. I cibi freschi non gli piacevano. Non poteva tollerarne neppure l'odore e li scansò dal resto. Aveva finito da un pezzo e se ne stava sazio e immobile quando la sorella, per fargli capire di ritirarsi, cominciò a girare la chiave. Sebbene sonnecchiasse, il rumore lo mise subito in allarme e s'affrettò a raggiungere il divano. Non fu sacrificio da poco rimanere là sotto, nel pur breve tempo che la sorella restò in camera. Il pasto abbondante aveva dilatato il suo corpo e faticava a respirare. Con gli occhi pieni di lacrime e brevi accessi di soffocazione, vide la sorella spazzare via, convinta di far bene, insieme con gli avanzi, i cibi non toccati, quasi fossero oramai inservibili. Tutto finì in un secchio che venne chiuso con un coperchio di legno e portato via. Aveva appena voltato le spalle che Gregorio uscì di sotto il divano, si stirò e riprese fiato. I nostri ascolti musicali continuano con la presenza dei brani del compositore praghese Erwin Schulhoff, 1894-1942, compositore particolarmente attratto dal jazz e dai ballabili, che in molte sue opere si è diviso tra espressionismo, un certo gusto per lo sberleffo quasi dadaista e pungente ironia. Questa volta però, come a sottolineare l'immagine che Gregor ha della sorella, il modo in cui egli la percepisce, con questo affetto così denso e puro, abbiamo scelto dalla suite per orchestra da camera del 1912 un delicato sfuggente Boston, ossia un valzer lento, eseguito dalla Ebony Band di Amsterdam, diretta da Werner Herbers. Thank you. Abbiamo ascoltato di Erwin Schulhoff Vals Boston dalla suite per orchestra da camera, eseguita dalla Ebony Band di Amsterdam, diretta da Werner Herbers. Ma la sorella, con chi effettivamente si rapporta? O meglio, pensiamoci un attimo, pensateci, quanto è grande l'insetto? Quanto è grande Gregor? Cosa ricordate della lettura? E quali sono le dimensioni, secondo voi? Noi l'abbiamo chiesto ai nostri ospiti e abbiamo ottenuto una pluralità di risposte. Dall'anta, da un'unica anta aperta non riesce a entrare. Dovrebbe aprire, no, poi riesce lo stesso, ma mettendosi di fianco e ferendosi. Quanto è grande, perché nel libro stesso ci sono dei momenti in cui sembrano dei salti di dimensionali. È sempre molto difficile dire quanto è grande l'insetto, quanto è grande Gregor, è molto difficile visualizzare Kafka. Quando lui è sul letto sembra grande come il letto, quindi uno ipotizza un insetto enorme, gigante, come un uomo. La sua stessa trasformazione ce lo fa immaginare come il Gregor uomo che diventa un insettone. Sì, anch'io ricordo che era grande, aveva la stessa grandezza del protagonista. Stando dall'interno è come se non mi ponessi il problema di poi veramente delle dimensioni. In realtà poi in altri momenti queste dimensioni sembrano più piccole, perché quando entrano nella stanza dove lui si era chiuso e il padre cerca di scacciarlo, lo vedono gli altri da fuori la porta, la famosa porta della stanza di Grigolo, lo vedono come un animale di piccole dimensioni, cioè quanto deve essere grande in realtà un coleottero. E abbiamo anche un'altra scena che ci dice che è abbastanza alto, e che lui a un certo punto riesce a spostare una sedia, la metterla davanti alla finestra e appoggiandosi riesce a guardare fuori. In realtà i coleotteri in natura quanto sono grandi? Pensate, vanno da meno di un millimetro fino a 4-5 centimetri alcune specie tropicali. Da noi ci sono delle specie di coleotteri che raggiungono 3-4 centimetri. Forse una delle specie che continuo a pensare potesse avere visto in qualche scatola entomologica al Museo di Praga il nostro Kafka, sono anche grandi appunto 3-4 centimetri. E proprio quei coleotteri carabidi del genere Carbus, questi grossi e neri coleotteri, hanno queste dimensioni. Però certo non raggiungono mai queste dimensioni enormi. Conosciamo degli insetti fossili di alcune centinaia di milioni di anni fa che erano grandi decine di centimetri, delle grandi libellule, ma poi, diciamo, dopo la grande estinzione dei grandi insetti non abbiamo mai più avuto insetti di queste dimensioni. Sono poi non sempre confermate queste descrizioni, da qui forse poi anche che nasce la confusione, perché c'è un'altra scena in cui lui, quando la sorella e la madre cercano di pulire e ripulire la stanza, di togliere i mobili, in realtà per dargli più spazio, ma in realtà lui poi dice no, mi togliete tutto quello che ho e non voglio, lui si mette sul famoso quadro della donna in pelliccia, quello che viene descritto subito all'inizio, e si mette su questo quadro e lo copre tutto. Ora non dico che smentisca le altre dimensioni, però il quadro non doveva essere, da come viene detto, era ritagliato da un giornale, quindi doveva essere abbastanza piccolo. Però in ogni caso lui lo ricopre, ma non viene detto che quanto è grande lui. Sembra essere, in questa situazione sembra essere un po' più piccola. L'insetto non deve essere ricondotto a dei confini, a dei tratti, chiamiamola una fisionomia oggettiva. Deve essere questa immagine nebulosa e nello stesso tempo estremamente parlante. E quando la famigerata donna delle pulizie entra nella stanza, quando lui muore, ha un manico di scopa e lo spinge così, perché lei pensa che lui stia dormendo, stia facendo finta, lo spinge così e lo sposta così con un manico di scopa. Certo che se fosse molto molto grande non sarebbe proprio una cosa facilissima. Lui è a quel punto molto molto leggero, perché non mangiava più e quindi è molto magro. Infatti lei con il monico della scopa riesce a spostarlo. Vivere non è difficile, potendo poi rinascere cambierei molte cose. Un po' di leggerezza e di stupidità, fingere, tu riesci a fingere, quando ti trovi accanto a me mi dai sempre ragione, e avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo.

La corsa e il fracasso spaventavano Gregorio due volte al giorno. Per il tempo che la sorella s'affaccendava nella stanza, lui rimaneva tremante sotto il divano, pur sapendo che la ragazza gli avrebbe risparmiato tante angosce se fosse potuta restare con la finestra chiusa in una stanza dove era lui. Ma la metamorfosi di Kafka può essere letta anche come una sorta di romanzo di formazione. Ce ne parla Mauro Kovacic facendo riferimento nella sua ricognizione anche a scrittori lontani nel tempo ma che possono essere accostati in qualche modo a Franz Kafka, ossia Albert Camus e David Foster Wallace. Ecco, un altro autore che diciamo è in ideale un dialogo con Franz Kafka, almeno per quanto riguarda la metamorfosi, è David Foster Wallace, secondo me, in particolare in un racconto, Per sempre lassù, che nella raccolta pubblicata nel 99 negli Stati Uniti, intitolata Brevi interviste con uomini schifosi. Ora, in questo racconto, Per sempre lassù, che cosa accade? Che cosa fa Foster Wallace? Di fatto fa la microfisica di uno spostamento, che è lo spostamento del protagonista dal bordo di una piscina al trampolino da cui si tufferà, da cui si lancerà. È uno spostamento di 20 passi, qualche passo, 50 passi, e lui fa una specie di radiografia, che poi è anche veramente una microfisica, degli stati emotivi, sensoriali, cognitivi di questo ragazzo nel suo 13° compleanno, nel momento in cui fa questo percorso. Oltre ad essere un racconto, insomma, di una bellezza, secondo me, impareggiabile per molti aspetti, è molto estremamente kafkiano ed estremamente vicino alla metamorfosi, perché il protagonista è in una fase forse la più metamorfica che ci sia, no? Cioè quella della preadolescenza, è in un passaggio che è anche un passaggio di stato, poi alla fine è il passaggio tra il bambino e l'età adulta, no? E come lo descrive David Foster Wallace, tra l'altro lo fa dandogli del tu e quindi parlandogli, questo è importante anche per quello che vorrei dire più in là, quindi descrivendolo a se stesso, parlandogli, diciamo, a lui stesso, parlandogli. Come lo fa? Lo fa facendogli sentire questo mutamento in corso. Tutto intorno a lui muta. Questo ragazzo di 13 anni sente i rumori diversamente, sente i profumi diversamente, vede i colori diversamente, il movimento delle persone sullo sfondo della piscina, la vivacità delle ragazze, dei ragazzi sullo sfondo. E questo si combina con tutta una serie di pensieri che fanno di lui un alieno a se stesso. Cioè è come se questo ragazzo si accorgesse della sua... se ne accorgesse in un modo quanto mai traumatico, no? come credo a tutti noi poi è avvenuto, no? Stupefacente e traumatico nello stesso tempo, si accorgesse di essere nell'atto di questo mutamento, nell'atto di questa trasformazione. Lui, l'autore intendo, isola, no? Come in un fotogramma quel momento e prova a descrivercelo, e ce lo descrive mettendo insieme sia le sensazioni che questo ragazzo ha verso se stesso, ma anche le sensazioni che questo ragazzo ha nei confronti degli altri e nei confronti dell'ambiente, anche nei confronti della prova a cui si accinge, no? Cioè questo del tuffarsi, no? Però tutto legato a questa condizione, appunto, oddio che cosa sono diventato, oddio chi è questo, come Agostino che dice oddio, ora finalmente ho capito chi sono perché sento che sto diventando qualcos'altro, no? Gregor Samsa si accorge di che cosa significa essere un impiegato, dover lavorare, essere se stesso, si accorge del rapporto che ha con la famiglia proprio perché questa trasformazione diventa una specie di dispositivo di verità nel racconto, cioè come se questa trasformazione gli permettesse di sapere bene chi è lui. Questo elemento è legato, secondo me, sempre a questa consapevolezza di estraneità, cioè io mi accorgo di che cos'è questo totalmente altro, cioè questo mio corpo, mi accorgo perché questo corpo è diventato uno straniero. Non a caso utilizzo questo termine, perché Albert Camus è decisamente uno scrittore in dialogo con Franz Kafka, e nello straniero di Camus abbiamo un protagonista, Meursault, che compie un delitto senza averne contezza, o perlomeno sa di compierlo, ma non ha ben capito perché lo sta facendo, e soprattutto non prova senso di colpa. È come se questo delitto che compie Meursault fosse un delitto di cui lui non è responsabile, come se il suo corpo agisse per conto proprio. Perché il corpo può agire per conto proprio perché è il luogo, diciamo, delle pulsioni inconsce, è quella che lo stesso Franco Battiato chiama l'animale che mi porto dentro. E il corpo è questo animale, quindi, come dire, sono io e me questo animale, però non lo capisco, è questo animale che mi porto dentro, questa specie di intruso, e questa specie di intruso, che è l'inconscio alla fine, è tale perché parla appunto un'altra lingua. Jacques Lacan dice: l'inconscio, che cos'è l'inconscio? L'inconscio è il discorso dell'altro. Per questo prima dicevo che è interessante che David Foster Wallace dia del tu a questo ragazzo mentre lo descrive, no? L'inconscio non soltanto ci parla, ma l'inconscio ti parla, cioè ti proietta attraverso la lingua dell'altro, no? Il discorso dell'altro, e tu non capisci quello che è come se fosse uno straniero. Era trascorso un mese dalla metamorfosi di Gregorio e la sorella non aveva più motivo di spaventarsi alla sua vista. Nell'arrivare un po' prima del solito, la ragazza sorprese Gregorio mentre guardava fuori dalla finestra, immobile, in un atteggiamento terrificante. Se si fosse limitata a non entrare, Gregorio non si sarebbe meravigliato, perché sapeva che in quella posizione le impediva di aprire la finestra, ma lei non solo non entrò, balzò indietro e chiuse la porta a chiave. Un estraneo avrebbe potuto pensare che Gregorio fosse in agguato per morderla. Naturalmente Gregorio si nascose subito sotto il divano, ma dovette aspettare fino a mezzogiorno prima che la sorella tornasse, molto più agitata del solito. Egli capì che il suo aspetto le era intollerabile, che sarebbe stato sempre così, che la ragazza anzi doveva dominarsi per non fuggire alla vista delle parti rimaste fuori del divano. Per risparmiarle anche questo, un giorno trasportò sulla schiena un lenzuolo dal letto al divano e lo accomodò in modo da coprire il mobile fino a terra. L'impresa gli costò 4 ore di fatica. Se la sorella avesse trovato che il lenzuolo era inutile, avrebbe potuto toglierlo, perché Gregorio, era chiaro, non poteva gradire quella segregazione, ma il lenzuolo rimase al suo posto. E quando Gregorio, scansato con cautela un lembo del drappo, volle vedere come la sorella accoglieva l'innovazione, credette di scorgere nei suoi occhi un lampo di gratitudine. Chi ha ucciso Gregor Samsa? Quali sono le dimensioni di Gregor? E oggi abbiamo parlato soprattutto del rapporto di Gregor con la sorella, ma se volete raccontarci le vostre impressioni, se volete partecipare con noi a questa indagine sulla metamorfosi, potete scriverci attraverso i nostri account Radio 3 Rai su Facebook e Radio 3 Tweet su Twitter. Continuiamo ad ascoltare un estratto dalla bellissima lettura di Nando Gazzolo nella traduzione di Giorgio Zampa, con le musiche a cura di Lorenzo Chiera e la regia di Luigi Durissi. Ed è il momento che ci ha ricordato all'inizio della puntata Massimo Fusillo, il momento in cui Gregor si appende al quadro per evitare che la sorella, nel suo progetto di sistemare la stanza di Gregor, lo prenda e lo porti via. Lui uscì fuori, tanto disorientato da cambiare direzione 4 volte. Perplesso, stava pensando cosa doveva salvare per prima, quando sulla parete ormai nuda scorse il ritratto della signora in pelliccia. Rapido raggiunse il quadro e s'appoggiò al vetro, che aderì contro il suo ventre bruciante, dandogli un senso di sollievo. Almeno quel ritratto che copriva col suo corpo nessuno glielo avrebbe tolto. Il capo rivolto verso la porta della sala, attese che le donne rientrassero. Queste, che non si erano concesse troppo riposo, tornarono subito. Grete teneva un braccio intorno alla vita della mamma, quasi sorreggendola. «E ora cosa prendiamo?» disse Grete guardandosi intorno. Ma ad un tratto il suo sguardo incontrò quello di Gregorio sulla parete. Se conservò il suo sangue freddo, fu per la mamma, tremando tutta e cercando di coprire con il capo la vista del muro, disse alla donna: «Vieni, forse è meglio che torniamo un momento in sala». Gregorio capì che Grete voleva mettere al sicuro la mamma per poi cacciarlo dal muro. Ci si provasse, lui non si sarebbe mosso dal suo quadro, piuttosto le sarebbe saltato in faccia. Ma le parole di Grete servirono a mettere in sospetto la mamma, la quale si scansò e vide l'enorme macchia bruna sulla carta fiorata. Prima ancora d'aver identificato quella macchia con Gregorio, urlò con voce rauca: «Oddio, oddio!» Ricordiamo che la lettura integrale di Nando Gazzolo la potete trovare sul sito. Aspetta, ricordiamo che la lettura integrale di Nando Gazzolo potete trovarla sul sito di Radio 3. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo con altri ospiti, altre angolazioni e altra musica di Erwin Schulhoff. Elisabetta Parisi in regia, Riccardo Orsini alla console ed Ennio Speranza vi salutano e vi augurano un buon sabato pomeriggio.